avanti, è grande onore, entrate capitan, e già un poco genero qui pantalone, già quasi un poco suocero, sempre tremare le lacrime al suo cio. Io quasi padre e voi papà di figlio. Entro in codesta placida casetta, Colombino, e a letto appendo la gran spalla.